sono due anni che in ogni consiglio regionale chiedo che si provveda finalmente alla nomina del garante dei detenuti. In Liguria non abbiamo né il garante dei detenuti, né il garante dei minori, né il garante delle vittime del reato, neanche il difensore civico. Non si riesce ad arrivare alla nomina del garante dei detenuti perché non sanno come dividersi le poltrone. Alla prima seduta che abbiamo fatto 2 anni fa hanno cominciato a dire in maggioranza 3 a noi, 1 a voi. Cioè questi discorsi. Così sono rimasti paralizzati da questo discorso, da questa spartizione, da questo bisogno di spartizione e dal fatto che tutto sommato non gliene importa niente del garante dei detenuti, e così il risultato è che dopo 2 anni ancora non l'abbiamo. Io vado molto spesso in carcere e ogni volta i detenuti mi chiedevano: ma il garante, io all'inizio dicevo stiamo per nominarlo, e poi ho cominciato a provare vergogna per questo, perché mi sentivo di prenderli in giro, perché non lo stiamo facendo, siamo una delle pochissime regioni che non l'hanno. E così, dopo che averlo chiesto per mesi, ormai anni, a ogni consiglio regionale, qualche giorno fa, martedì, in consiglio ho detto basta, non ne posso più, l'unico mezzo che ho per cercare di ottenere questa cosa, che è prevista dalla legge, non è niente di rivoluzionario, è stato smettere di mangiare. Infatti la domanda che volevo fare era proprio: c'è un obbligo di legge, insomma, non è, come dire, affidata semplicemente alla sensibilità di ogni regione, di ogni comune? Ma c'è una legge della Regione Liguria, ormai in Italia 16 regioni mi pare su 20 ce l'hanno, manca in Basilicata, in Sardegna, in Calabria, in Liguria, ma la Basilicata e la Liguria sono le uniche che, a quanto mi risulta, non hanno neanche i garanti comunali, per cui noi non abbiamo assolutamente niente. Noi abbiamo delle carceri in estrema difficoltà, abbiamo il carcere di Genova Marassica, 600-700 detenuti a seconda dei periodi, in una struttura che è stata leggermente modernata, ma è comunque una struttura ottocentesca. Abbiamo il carcere di Sanremo, dove ci sono stati molti atti di autolesionismo. C'è un detenuto che si è buttato sulla piastra dei fornelli e si è ustionato completamente perdendo le braccia. Ecco, questa è la situazione, e non riusciamo a votare e a metterci d'accordo neanche per un garante che è previsto dalla legge regionale. Ripeto, ormai tutte le regioni ce l'hanno, praticamente tutte, noi non riusciamo neanche a votare questo. Quindi lei ha cominciato lo sciopero della fame e andrà avanti fino a che non ci sarà questa nomina? Io ho cominciato oggi è il quarto giorno, comincio a essere un po' stanco, sentite, ho il fiatone a fare 2 passi, ovviamente è solo l'inizio. Io andrò avanti finché il Consiglio regionale non fisserà il voto per eleggere il garante dei detenuti. Al di là della questione della spartizione, pensa che in Consiglio regionale la maggioranza abbia la sensibilità per affrontare questi temi? Ma io credo che il centrodestra abbia la sensibilità di occuparsi delle questioni di diciamo sia garantista soltanto quando si parla di Berlusconi, questa è la verità, quando si parla di quel livello di imputati, e quando si parla della povera gente, della gente comune, mi sembra che il centrodestra non abbia assolutamente questa sensibilità. Io faccio anche un diario su Facebook, guardate, è molto importante, perché le battaglie da soli non servono a niente, è soltanto un digiuno. Se invece diventa una battaglia di tanti, allora si arriva al risultato. Cioè, io sto imparando da questa esperienza che una battaglia di uno è inutile, la battaglia di tanti può portare al risultato.